Sono le 18. Tocca a me. Tocca a me. Vado. Mondo difficile, però M2O. Beccati ciò. Oggi è lunedì 12 giugno 2006. No, la data, quando dico la data è il giorno, cioè lo so che lo sapete, e lo dico per rendermi conto io di che giorno è, dove sono e come mai sono qui. Che bello è che sui canali di Sky, dove sono trasmesse le partite di calcio del mondiale, c'è un canale, credo, almeno io ieri sera ho scoperto questa cosa vedendo la partita, ho guardato Angola-Portogallo, e su quel canale lì dove io ho guardato la partita c'era la telecronaca della Jalapas. È spettacolare questa cosa qua, questa è una cosa che mi piace molto. Guardate le partite con la telecronaca della Jalapas, perché sono uno spettacolo. Perché comunque, vabbè, c'è la notizia, c'è quello che tu vuoi sapere, c'è la partita che vuoi vedere e c'è la loro spettacolare ironia e grandezza. Bellissimo, spettacolare tutto ciò. I wanna feel you, baby, wanna get down. Get down. Get down. I wanna touch you, baby. Wanna get down. I wanna feel you, baby. Wanna get down. I wanna touch you, baby. Wanna get down. I wanna feel you, baby. Wanna get down. I wanna touch you, baby. Wanna get down. I wanna feel you, baby. Wanna get down. I wanna touch you, baby. Wanna get down. I wanna feel you, baby. Wanna get down. Tra l'altro il Portogallo ha vinto, ma secondo me ha preso delle mazzate clamorose, morali, da una squadra, secondo me, non troppo preparata, ma sicuramente molto forte e piena di voglia di vincere, di voglia di giocare per vincere. Spero che le squadre africane diano la loro solita lezione di calcio e non di immagine come danno tutti gli altri. Mi spiace dirlo, ma purtroppo questa è la realtà che mi si ripropone ogni volta che guardo i mondiali. La maggior parte dei giocatori di certe squadre, appunto africane, sicuramente non hanno gli stipendi che hanno invece certi nostri giocatori, ma non solo gli stipendi, sicuramente quei giocatori non hanno neanche l'opportunità di allenarsi nelle condizioni dei nostri giocatori, non hanno a disposizione gli uomini, i professionisti che hanno invece certi nostri giocatori, insomma le condizioni sono completamente diverse. Ma quello che noto è che nonostante tutto quei giocatori lì portano tutta la loro forza, la loro anima in campo, e questo lo si nota oltre che dallo spettacolo che danno, nonostante a volte non riescano a vincere, ma in quei casi secondo me il risultato diventa veramente relativo. E dicevo, lo si nota dallo spettacolo che danno, ma soprattutto dal fatto che si danno fino all'ultimo secondo della partita, senza tregua. Sera alle 21, credo, mi sembra alle 21, gioca la nostra nazionale azzurra, per forza, anche se non ho mai capito il nesso col nostro tricolore, cioè nel senso che la bandiera italiana ha quei tre colori lì e la maglia degli azzurri ne ha un altro invece che... capito? Voglio dire, se la maglia è della nazionale italiana, perché non ha i colori della bandiera italiana? Non c'entra niente questa cosa. Cioè, azzurro, l'azzurro è preso da cosa? Cosa vuol dire? Perché la maglia? Io no, perché sono cose che poi a me piacerebbe sapere. Magari qualcuno lo sa, me lo può dire, mi scrivete e così io lo dico. Intanto lo dite a me, così lo so anch'io, e poi lo dirò anche a chi lo vuole sapere. We'll be right back.

cammino di Gigi D'Agostino non sono solo io. Una gamba è la mia e una è la vostra, e quindi si decide insieme. Stai ascoltando i passi del cammino di Gigi D'Agostino. I see a shadow over the window, loose in a moment. I'm calling you. I'm calling you. It seems so. Ci fermiamo un'antichia e torniamo subito dopo la... Eh? Dai. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale.